Allora ragazzi, visto come abbiamo introdotto un po' nell'introduzione, visto il momento economico molto critico, è giusto capirne di più e quindi abbiamo deciso di affidarci a un soggetto di spicco, uno che ci ha ragione ai supra, come dicono alcuni. Colui che l'Italia crolla anche grazie alla Ciabanca e nonostante tutto lui si piglia indisturbato il caffè al bar. Ecco a voi Ennio Doris. Buonasera, buonasera, salve a tutti terroni. 4,75%, mica bazzeccole. Così simpatico, ma scusate, su 4,75% chi cazzo è? Vi faccio un esempio molto pratico. Avete mai visto un film Luci Rosse? Credo che tutti, vedendoli, dacidendoci dentro con la Federica o con le dita a seconda dei casi, abbiamo visto che durante il film hard c'è la penetrazione anale. E cosa c'entra, scusi? C'entra perché voi mandiamo sempre un culo, come dite voi qui in Africa. Bonjour Finesse, della crisi quello di cui volevamo parlare, che cosa ci dice? Quale crisi, per favore? No, che questa cosa che e poi scusi a me proprio, guarda, non me ne può fregare di meno, in quanto sono pieno di soldi, fin quando c'è pila e pilu soprattutto, chi me ne può fregare? Ma senta, quando dice alle persone nei suoi spot che la banca è intorno a te, che cosa intende allora? Si sbaglia, e di grosso pure. La mia banca non è intorno, ma dietro le persone. In linea abbiamo alcuni ascoltatori che ne vorrebbero sapere di più. Allora, se mi passano la prima telefonata, sentiamo che cosa hanno da dire. Buonasera, buonasera a tutti. Signor Ciccio, un barista Ennio Doris. Prego, signor Ciccio. No, veramente ci vuole di... No, Ennio Doris, vedi che ha l'impretta di un bar con tutte le consumazioni che sta facendo i 15 anni a sta parte siamo arrivati a 75.000 euro. E chi pensa che a campo per te ti fa viva aperitivo e caffè a sbaffo? E guardo! Scusate, se mi passate le telefonate da Tokyo, io ovviamente non posso capire. Il giapponese non lo parlo. Che giapponese, chi si pensa che era proprio un cazzato. Vabbè, passiamo alla prossima telefonata, prego. Amore! Sono Ugo, ti ricordi? Che la prossima volta che vieni più un buono biscotto, o mi paghi chiamando il dedo irritate, o ti mando un magnaccio mio, e il sauro consigliato. È bellitoso, minchione. Cazzo, complimenti, signor Doris. Che simpatiche canaglie che siete. Va bene, è bellissimi scherzi, dai, su. Mo' vedi che bella sorpresa. Vuole sapere chi c'è dietro le quinte? Dietro le quinte? Avete anche le quinte? Sì, quinte certo. Erronea? Sì, certo. Sono avanzati. Vabbè, le dico che c'è sua moglie, la signora Angelina Doris, è qui. Hai sembrato un consigliato. Va a sbaffare il bar. Pua femmine, anzi mascole, ambo un biscotto e più me la sta senza davvero per fare la spesa, ma solo guarda. Amore, sai, dai. No, metti le giacchette. Come ti permetti, cara? Poi lo sai che c'è la crisi, lei la mette a costo. Ora c'è la crisi, signor Doris? La crisi? Africa! Io sai che dico, ma perché non si fa tre cazzi dei cazzi su, Ma ti sparo! Come va bene, va bene. L'angolo dell'economia è finito. Grazie a tutti e arrivederci. Angelo, menalo!